Che avete da guardare? Siete solo una manica di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove vorreste stare. Voi avete bisogno di gente come me. Vi serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Beh, e dopo come vi sentite? Buoni? Voi non siete buoni. Sapete solo nascondere, solo dire bugie. Io non ce l'ho questo problema. Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie. Coraggio, augurate la buonanotte al cattivo. Coraggio. Vivo una vita dove le persone come me non sanno dove sfogarsi, perché come stare in prigione, prigionia di una scia che va via in ogni via. C'è chi ha storie diverse dalla mia. Ho smesso di stare male per la gente perché non pensa ma parla e non collega lingua alla mente. Parla di me come un superstite di chi uccide con le chiacchiere, ma non c'è nessun martire. Scrivo per sfogarmi, io non voglio saltarmi come chi ha le prime armi vuole costearmi, spararmi. Pistola d'acqua che poi spruzzano l'acca. Io spingo la mia merda, puoi chiamarla anche cacca. Va che qua se non credi quel che fai finisce stinto come il T-Rex. Non serve che fai finta di non capire, perché non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire. È l'ultima volta che lo vedete un cattivo come me, ve lo dico io. Forza, fate passare l'uomo cattivo. Attenti, sta arrivando il cattivo. Meglio che vi fate da parte. Io scrivo le cose che mi accadono e vivo dove le cose non quadrano. È un giro tondo dove se casca il mondo staremo tutti giù per terra aspettando il tonfo. E il tappo che si sente troppo puzza di complici, persone che tagliano come Edward con le forbici. Luridi, ipocriti, semplici, patetici. Vi lascerò immobili proprio come anestetici. Il calore che diffonde questo ghiaccio che fonde, resteranno solo onde ad annegarvi sulle sponde. Onde evitare immonde maledizioni, perché a volte ronde al fronte sono molte preoccupazioni. Chiudo sta bara proprio come una bara. C'è chi bara fa la volpe nella tana, ma è una pantegana. Cerca rispetto, trova solo rigetto, come chi ha un sogno nel cassetto ora rinchiuso dentro un cassonetto. Vuoi fare la guerra con me? Ok, farete la guerra con il più forte. Prendete scarafaggi, vi schiaccio di me. Volete il gioco duro? Va bene, facciamo il gioco duro. Coraggio. Volete il gioco duro? Amico, l'unica cosa a questo mondo che conta davvero sono le palle. Tu ce l'hai? Le palle? Eh? Huh?